Il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Domani 16 dicembre 2015 assisteremo a uno di quegli eventi epocali sui quali si è creata un'attesa davvero incredibile. Milioni di persone stanno aspettando l'uscita di un film al cinema. Sto parlando, lo avete capito, del ritorno della saga di Guerre Stellari, il vero colpo d'ala nella vita del suo creatore, George Lucas. Ma attenzione, non è lui il protagonista della puntata di oggi, è un attore che in quel film neanche ci sarebbe dovuto stare, perché proprio George Lucas inizialmente non lo voleva. Oggi ricordiamo il colpo d'ala di un attore del grande firmamento delle star di Hollywood, Harrison Ford. Han Solo, I'm captain of the Millennium Falcon. Io Han Solo, sono il comandante del Millennium Falcon. Harrison Ford è veramente un pezzo grosso dello star system, è uno di quelli il cui nome basta a riempire le sale cinematografiche. Ha interpretato decine di film, quasi tutti di successo. Alcuni di questi hanno proprio segnato dei record al botteghino, soprattutto, non so, Indiana Jones, l'archeologo atletico e senza paura, creatura di Steven Spielberg. Ha lavorato per Ridley Scott in Blade Runner nei panni del protagonista Rick Deckard. E un altro ruolo di successo è stato quello dell'analista della CIA, Jack Ryan, in un'altra serie di film di genere spionistico. E queste sono solo alcune delle tante facce di Ford. Tutto per lui è cominciato però a metà degli anni 70, quando la sua strada, che fino a quel momento era assolutamente in salita, apparentemente priva di prospettive, la sua strada ha incontrato quella di un giovane regista dalle idee chiare però un po' stravaganti, e quel George Lucas a cui dobbiamo Guerre Stellari. Harrison Ford ha quell'appuntamento con il destino che lo avrebbe proiettato nell'Olimpo del grande cinema americano. È arrivato tardi, l'abbiamo detto, dopo decenni di gavetta, spesa soprattutto in piccolissimi ruoli televisivi, nel doppiaggio, nella radio, anni di lavoro senza mai la grande occasione. Perché è vero che arrivano i colpi d'ala, spesso grazie alla forza di volontà, però a un certo punto c'è bisogno di una congiunzione astrale, di fortuna, bisogna essere nel posto giusto al momento giusto. Harrison Ford nasce nel luglio del 42 a Chicago. Le origini, come per tanti americani, sono frutto di una grande mescolanza: nonno paterno cattolico irlandese, nonna paterna immigrata tedesca e da parte di madre ebrei della Bielorussia come origine. Quindi un mix anche di religioni diverse, però lui non viene educato a nessuna di queste religioni. Cresce nei Boy Scout, nonostante i ruoli avventurosi che interpreterà in carriera, da ragazzino viene preso di mira dai bulli, come ricorda lui stesso in un'intervista. A 12 anni fui trasferito in una nuova scuola, dove c'era già un gruppo ben formato, in cui ero io quello che si doveva adattare. Lì diventai l'obiettivo preferito di molti bulli. La scuola si trovava in cima a una collina e ogni giorno, a ricreazione, i ragazzi della classe si divertivano a buttarmi giù dal pendio. Non so bene come iniziò tutto questo, ma ricordo bene che passavo tutto il tempo della ricreazione a strisciare fino alla cima della collina. Perlomeno questo mi fece guadagnare una simpatia da parte delle ragazzine della classe, per cui ogni volta che venivo buttato giù, almeno poi potevo godere dei benefici della compagnia femminile per il resto della giornata. E poi il college in Wisconsin, le esperienze giovanili nelle confraternite e finalmente l'incontro con la recitazione, che è una scelta dettata soprattutto dalla sua voglia di superare questa fortissima timidezza, una specie di terapia d'urto. E cosa c'è di meglio per un timido delle luci di un palcoscenico di dovere recitare o cantare? Beh, anch'io sono un ex timido. davanti a decine di persone che guardano solo te. La trovavo una cosa snervante, ma la mia prima ambizione diventò il superamento di tutte quelle mie paure. Quando finalmente quelle paure svanirono, iniziai l'altro processo che rendeva interessante la recitazione ai miei occhi. Il racconto, lo storytelling. L'effetto che si creava tra me e il pubblico mi aiutò a trovare un posto nella società. Un posto che non avevo mai avuto prima. La passione alla fine arriva nel 64, 22 anni dopo un'estate di recitazione in una compagnia teatrale del Wisconsin. Ford decide di trasferirsi a Los Angeles, che è la calamita per tutti gli aspiranti attori, e fa un provino come speaker radiofonico e non viene preso. Resta a Los Angeles lo stesso. Dopo poco la Columbia Pictures lo scrittura assieme a una schiera di volti nuovi per un programma dedicato ai talenti emergenti. È l'inizio della sua carriera lunga, difficile, senza grandi occasioni, almeno fino al grande incontro, l'incontro con George Lucas. Il falco e il gabbiano. Domani è il grande giorno, il giorno dell'uscita del nuovo capitolo di Guerre Stellari, Il risveglio della forza, e stiamo raccontando la storia di un grande attore, Harrison Ford, la cui spettacolare carriera è cominciata proprio da quel film, dal ruolo di Han Solo in Guerre Stellari, il ruolo in cui si ripresenta a quasi 40 anni dal primo film della serie. Abbiamo parlato di come la carriera di Harrison Ford sia cominciata presto, a 22 anni è già in California, a Los Angeles, scritturato per $150 alla settimana dalla Columbia Pictures per uno show di nuovi talenti. Però la fortuna per Harrison arriverà molto più tardi, 12 anni dopo. Ci vorrà tempo, una lunghissima gavetta prima di arrivare alla notorietà, al primo di una serie di ruoli che l'hanno portato a diventare una delle star più famose e tra l'altro più pagate di Hollywood. Comunque siamo negli anni 60, Ford lavora molto, però non va al di là di piccoli ruoli in film per la TV, parte addirittura senza battute, una specie di comparsa, spesso neanche citata nei titoli di coda. La prima volta che il suo nome appare veramente nei crediti di un film è nel 67, la pellicola si chiama Assalto Finale, è un western. E il suo nome viene indicato come Harrison J. Ford, dove la J non sottintende nessun secondo nome che Harrison Ford non ha mai avuto. Gliel'hanno imposta quei geni degli studios per la preoccupazione che lo si potesse confondere con un divo del muto, suo omonimo, che era tra l'altro morto 10 anni prima. Insomma, anni e anni di lavoro senza vedere la luce della notorietà e quindi neanche i soldi veri, quelli dei grandi film. Non ho mai davvero fatto grandi cose in TV. Sopravvivevo con piccole parti e la mia ambizione era quella di recitare delle parti che non si vedevano spesso in quel tipo di televisione. Io ero ansioso di recitare con i grandi. Volevo recitare in grandi film. Volevo interpretare personaggi più complessi e interessanti. E molti a questo punto mollano. Ford tra l'altro è sposato con quella che sarà la sua prima moglie, Mary Marquardt, ha già 2 figli e è costretto a arrotondare con altri lavori, fa il carpentiere, addirittura fa il cameraman ad alcuni concerti dei Doors, scelte dettate dalla necessità, dall'insoddisfazione, però anche da quella consapevolezza che fa sì che alcuni vadano avanti a combattere e altri si ritirino prima della resa dei conti. Ero consapevole del fatto che se fossi stato nello stesso posto facendo particine in TV giorno dopo giorno, avrei finito con il consumarmi la faccia, perdendo la possibilità di fare quello che avrei voluto fare davvero. Scoprii un nuovo modo per guadagnare la pagnotta realizzando piccoli lavori di falegnameria. La mia era una famiglia molto giovane. Riuscii a guardare oltre, perché avevo sempre saputo che la tenacia è più forte di qualsiasi cosa. Eh sì, la tenacia è molto, forse proprio quello ha assicurato a Ford l'opportunità del suo incontro fondamentale, quello che gli ha veramente cambiato la vita. Perché in quel momento della sua carriera lui intanto ha superato la trentina, e quindi è veramente a un binario morto. Bene, incontra George Lucas, che è un giovane regista emergente, uscito dalla scuola di cinema, ha molte idee innovatrici. lui gli offre il primo ruolo importante in un film che sta girando, che si chiama American Graffiti, uno dei film meglio riusciti sulla gioventù americana dei primi anni 60. Non è un ruolo da protagonista, però la sua partecipazione è cruciale perché si cementa la conoscenza con Lucas, sono coetanei, rimangono in contatto. Tra l'altro American Graffiti è un successo e quindi il passo successivo per Lucas è notevole, perché ha il via libera per realizzare il film della vita. Ogni regista ha il suo film della vita. Lui ha in mente una storia piuttosto stravagante, ambientata in un futuro fatto di astronavi e di battaglie tra truppe imperiali e ribelli. È il primo capitolo di Guerre Stellari. Però la strada non è già scritta, perché Lucas vuole un cast di attori giovani, mai visti, facce nuove. Coinvolge comunque Harrison. Sentiamo in quali termini da Lucas e dallo stesso Harrison Ford. He started out in American Graffiti. Lui aveva iniziato con American Graffiti, poi lo utilizzai come lettore nei provini degli attori per Star Wars. Aveva il compito di recitare le battute di Han Solo agli altri attori per vedere come funzionavano negli screen test, soprattutto quelli selezionati per il ruolo di Luke. Veni assegnato agli attori per il lavoro dietro le quinte. Mi venne chiesto se potevo aiutarli a recitare le loro parti, così il mio compito diventò quello di spiegare agli attori il loro ruolo all'interno della storia. Guardando i filmati, poi mi resi conto che in quel ruolo di Han Solo il migliore era proprio lui, senza alcun dubbio. Così lo assunsi per Star Wars. E insomma, Harrison Ford è così bravo che riesce a conquistare la parte, si alza dalla panchina addirittura contro il volere iniziale del regista, anche perché ormai aveva 34 anni e quindi il tempo cominciava a stringere. Non viene previsto ovviamente il successo che avrà quel film che parla di guerrieri con spade laser, contrabbandieri spaziali e principesse ribelli. Bene, il successo sarà planetario ed è un successo che dura da 40 anni e che ha cambiato in gran parte il mondo del cinema e non solo quello. Il Falco e il Gabbiano. Vi stiamo raccontando il colpo d'ala di un grande attore americano, Harrison Ford, che a 34 anni suonati, dopo una gavetta lunghissima, riesce a conquistare il ruolo della sua vita, quello di Han Solo in Guerre Stellari. Peraltro, i panni di questo Han Solo, Han Solo, Ford torna a indossarli nel settimo capitolo della saga creata da George Lucas. E il film che milioni di appassionati stanno aspettando è ormai alle porte. Si chiama Il risveglio della forza. La leggenda vuole che Ford venga scoperto da George Lucas mentre fa il carpentiere sul set di American Graffiti. Non sappiamo se è vero. Certo è che lo stesso Lucas non lo riteneva adatto al film Star Wars, Una nuova speranza, il primo, perché il suo progetto, che era folle, direi sperimentale, un progetto che era un vero e proprio chiodo fisso nella mente di Lucas, che ci pensava da quando andava a scuola di cinema, per quel progetto lui vuole attori non di grande notorietà. In più l'immagine di Ford è un po' usurata da molti ruoli marginali in televisione. Insomma, lui viene chiamato solo per fare da coach, per aiutare gli altri attori nei provini, e piano piano si insinua nella mente del regista e lo convince, perché è più bravo nel leggere le battute degli altri attori di quanto non siano i suoi colleghi, che vengono chiamati anche per interpretare questo ruolo del contrabbandiere spaziale. Il film è veramente strano, lo stesso cast non prende molto sul serio il progetto, ma ci sono robot, effetti speciali, pupazzi, insomma in molti temono il flop, e il seguito invece è la storia del cinema, perché Guerre Stellari, quando esce, scatena un fenomeno globale, un fenomeno di massa, una specie di isteria collettiva. Sentiamo Ford in un'intervista proprio di quel periodo. Senti Harrison, stai iniziando a sentire gli effetti di Guerre Stellari sulla tua vita privata, sulla tua carriera professionale, cose che magari non ti erano mai capitate prima. La gente ha molto rispetto per il successo e questo film rappresenta sicuramente un successo, il che ha sicuramente rappresentato per me un cambiamento inevitabile. E a proposito di essere riconosciuti uscendo per strada, la gente inizia a correrti dietro? Quando ho visto questo film in sala con il pubblico, per la prima volta 3 giorni fa, sedute a fianco a me c'erano delle persone che stavano guardando il film per la seconda volta. Parlammo a lungo del film senza che nemmeno mi riconoscessero. Non sono mai stato uno riconoscibile. All'inizio della mia carriera lo consideravo quasi un problema. Non capivo perché la gente non si accorgesse che ero sempre io a interpretare diversi personaggi. Scommetto che questo cambierà presto. Grazie, Harrison. Thank you so much for talking. E quindi Harrison Ford, da attore che si barcamena a fatica tra ruoli minori, viene improvvisamente proiettato nell'Olimpo di Hollywood. Quel film così strano, il cui successo è inatteso e improvviso peraltro, cambia la vita non solo a Ford ma a quasi tutti quelli che ne sono stati coinvolti, Lucas in testa. Perché la storia ci racconta che nel giro di 6 anni vengono realizzati 2 sequel della saga, L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. E il successo non si ferma. Ford suggerisce a Lucas un finale perfetto per la trilogia, fare morire il suo personaggio Han Solo alla fine del terzo film. Lucas astutamente non è d'accordo, opta per un happy ending, garantendo a milioni di fan la possibilità del ritorno di Ford magari decenni dopo, nel 7° film della serie. Aveva visto giusto. Il resto della carriera di Ford è impossibile da raccontare per intero nel dettaglio, e il rapporto con Lucas e con Steven Spielberg gli garantiscono altri ruoli fondamentali, uno in particolare, anche questo da storia del cinema, quello di Indiana Jones, interpretato per la prima volta nell'81 nei Predatori dell'Arca Perduta. Forse va anche detto, a onore di Harrison Ford, che lui non è mai rimasto schiavo dei suoi personaggi, perché ha interpretato ruoli diventati icone del cinema, diversi tra loro, riuscendo a cambiare, a svincolarsi da quei personaggi, pur interpretandoli più volte, ogni volta, insomma. Però lui, forse proprio per quella faccia così malleabile, così duttile, non è rimasto legato a nessun personaggio. E peraltro il ruolo dell'archeologo avventuroso lo ottiene per la rinuncia di un collega, Tom Selleck, troppo impegnato a emettere fatture e a ricevere bonifici con il suo Magnum PI in televisione. Neo, che significa nuovo, e litico, che significa pietra. Allora, torniamo al nostro tunnel di Turkpin, vicino ad Ezelton. È formato da un corridoio centrale e 3 camere o cavità funerarie. Ora, come spesso avviene, la zona era già stata scoperta e depredata. E questa purtroppo è la solita beffa. In questo caso è stato asportato quasi tutto il contenuto del tumulo. È il destino dell'archeologo, quello di vedere frustrati anni e anni di lavoro e di ricerche. Cercate di ricordarlo sempre. Ma non è solo la vita dei personaggi che interpreta a essere movimentata, perché anche la vita personale di Harrison Ford è piuttosto affollata, diciamo così. Divorzia nel 79 dalla prima moglie e si risposa nell'83 con Melissa Mathison, che è una sceneggiatrice conosciuta sul set. Ha altri 2 figli, arriviamo a 4. Poi nel 2004 Melissa Mathison si dimostra non solo brava sceneggiatrice ma anche brava a gestire le separazioni, perché divorziano, con un divorzio che passa alla storia come uno dei più costosi di sempre, ovviamente sempre per l'uomo, per Ford, della storia di Hollywood. Dal 2002 insiste, evidentemente aveva messo via soldi abbastanza per sposarsi un'altra volta. La sua compagna si chiama Calista Flockhart, attrice, ha 22 anni meno di lui, la sposa nel 2010 e arriva al terzo matrimonio, e speriamo sia l'ultimo, soprattutto per le sue finanze. Ha adottato anche un figlio, il 5° per lui, e c'è da dire che Ford è sempre stato molto bravo, malgrado tutto ciò, a difendere con forza la sua privacy, per quanto si possa farlo nella sua posizione. E tornando ai ruoli che lo hanno reso famoso agli inizi degli anni 80, lui interpreta un altro personaggio fondamentale per la sua filmografia. E il cacciatore di replicanti Rick Deckard è ancora un film di fantascienza da un racconto di Philip Dick, un altro progetto veramente visionario firmato da Ridley Scott. E non è un successo immediato di botteghino, ma è una di quelle pellicole che hanno trovato forza con il passare del tempo fino a essere oggi una vera e propria icona, un cult per chi ama il cinema. Gaff era stato là e l'aveva lasciata vivere. Per 4 anni aveva pensato, si sbagliava. Tyrell mi aveva detto che Rachel era speciale. Non aveva data di termine. Non sapevo quanto saremmo stati insieme. Ma chi è che lo sa? E di voli e di colpi d'ala il nostro protagonista di oggi se ne intende molto, anche al di là della sua carriera cinematografica, perché ha una passione, la passione per il volo, gli aerei, gli elicotteri, una passione più forte della paura e degli incidenti che ha subito, uno nel 99 quando si è schiantato con un elicottero senza riportare ferite, l'altro, molto più grave, a marzo del 2015 quando precipita alla periferia di Los Angeles con un piccolo velivolo d'epoca, un aereo di addestramento militare degli anni 40. Ha evitato di finire sulle case con una manovra davvero da Han Solo e riesce a schiantarsi su un campo da golf. Si è ferito alla testa, ma si è ripreso, ha già ripreso a volare. Insomma, in carriera Harrison Ford ha girato una 50 di film e lavora ancora oggi che ha superato i 70 anni, lavora al ritmo di un ragazzino, forse anche per mantenere le varie mogli. Comunque sembra impossibile, però oltre ai ruoli di cui abbiamo parlato, ha interpretato altri film di successo. Con Witness, il testimone, ha avuto la sua unica candidatura a tutt'oggi agli Oscar come miglior attore protagonista. E in effetti è abbastanza strano che l'Academy non lo abbia ancora premiato, considerando il suo ruolo da protagonista in film come A proposito di Harry, Il fuggitivo, e sempre o quasi sempre con grandiosi risultati di botteghino, un successo costante che ha garantito a Ford una citazione nel Guinness Book of Records nel 2001 come l'attore più ricco del mondo. Tanto per farci un'idea, nel 2002 il suo compenso per il film K-19 è stato di circa 25 milioni di dollari, mentre gli incassi totali calcolati finora nei film che ha interpretato arrivano a 14 miliardi di dollari. Insomma, nessun attore di Hollywood ha mai fatto incassare tanto quanto lui. Sicuramente ci sono alcune esperienze nella recitazione che sono più piacevoli di altre. Ci sono momenti che possono essere molto difficili e complessi e altri che invece possono essere molto divertenti. In ogni caso, è un lavoro molto bello. Essere famoso mi è molto utile nel vendere film. Il problema è che la cosa più preziosa alla quale si possa mai rinunciare è la privacy. Nel corso degli anni ho imparato a cavarmela con le situazioni in pubblico e con tutto ciò che implica l'essere famosi. La prima regola è quella di non farsi vedere troppo spesso e di non attrarre attenzione su di sé. In public and not attracting attention to yourself. E nell'immediato futuro di Harrison Ford ci sono addirittura 3 sequel. Intanto c'è un nuovo Indiana Jones di cui si parla da tempo, Spielberg lo conferma, vuole fare con lui questo film prima possibile. Poi, soprattutto per gli amanti dei grandi film di culto, c'è finalmente il secondo capitolo di Blade Runner, le cui riprese inizieranno nel 2016. E poi quello per cui abbiamo dedicato a lui questa puntata, perché a quasi 40 anni dalla sua prima apparizione tornerà domani, praticamente, lo vedremo domani, nei panni di Han Solo insieme al suo fido Chewbacca. Chewie, siamo a casa. Una storia di grande cinema, ma soprattutto una storia di cocciutaggine e di grande talento e di chi ha saputo aspettare e cogliere la grande occasione. Questo è Harrison Ford ed è anche tante altre cose. Storia di chi è riuscito, di chi ha tentato, di chi ha avuto cadute e risalite o di chi, come lui, non si è fermato alle prime, alle seconde, alle terze difficoltà. Ognuno di noi nella sua vita può rischiare di cadere, può anche dare però quel colpo d'ala che lo porta a volare in alto come il falco, il gabbiano. Se volete, mandateci dei commenti, segnalateci altre vite su cui volete che noi si punti il microfono. Fatelo scrivendo al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure venite a cercarci, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani.